con i miei migliori auguri di buon anno 2023. Ripartiamo con le nostre iniziative, ritrovandoci in questo luogo, il Trevi Lab, che ha tante sale. E spesso usiamo la nostra sala più piccola della biblioteca, vicino ai libri, ai nostri amati libri. Ogni tanto invece riusciamo anche a sconfinare e a portarci in altri luoghi. Questa sera ringrazio tantissimo il professor Loris Taufer, che è qui con noi, l'autore del libro che verrà presentato, e ringrazio anche Carlo Bertorella, che si è fatto così il promotore di questa iniziativa, ci aveva segnalato il libro e poi si è offerto e ci ha chiesto di presentarlo. Ringrazio tutti voi di essere qui con noi in questa nuova avventura del 2023, all'insegna della lettura, della riscoperta del piacere anche di stare insieme e soprattutto di frequentare la biblioteca. In questo permettetemi un accenno anche alle prossime iniziative, ma soprattutto a un progetto che abbiamo in caldo e che stiamo portando avanti con grande successo, che è quello dei gruppi di lettura. I gruppi di lettura sono dei momenti di riflessione dove ognuno di noi può intervenire e dire la propria opinione oppure il proprio pensiero o suggerimento su una lettura. Quindi sono un po' più partecipativi e vengono organizzati dalla biblioteca nei giorni di mercoledì, diciamo. Uno è dedicato alla narrativa locale, uno è dedicato invece alla saggistica, e in questo ci spingeremo anche nel terreno della filosofia nelle prossime settimane, per cui sono particolarmente ancora riconoscente a voi che questa sera ci introducete di nuovo in una modalità accademica e scientifica occupandoci di filosofia. E poi volevo segnalarvi anche un percorso che appunto parte questa sera e che troverà un'altra occasione il 6 di marzo, sempre alle 17:30. Qui in sala è con noi Rosetta Infelice Fronza, che farà la moderatrice in quell'occasione, quando verrà presentato il libro del professor Giacometti, Baldassar. Quindi insomma abbiamo deciso che in un periodo come questo è meglio anche puntare su dei pensieri, su una modalità più alta di certe iniziative. Quindi siamo molto contenti di partire con i nostri ospiti questa sera, vi ringrazio della vostra attenzione e partecipazione, e soprattutto chi avesse interesse sappia che insomma iscrivendosi gratuitamente ai servizi della biblioteca riceve costantemente le informazioni necessarie per partecipare a questi incontri. Quindi grazie, saluto ancora e do il benvenuto al professor Taufer e al professor Carlo Bertorelli. Grazie. A me l'arduo ma simpatico e ben voluto e ben desiderato compito di presentarvi ancora e dialogare un po' con l'amico Loris Taufer, che conosco da tanti anni e che è la sua seconda prova saggistica sempre sull'argomento filosofico, con questo libro appena uscito da Erickson, sulle radici nascoste, viaggio filosofico di un adolescente nel 2008, quindi circa 15 anni fa era uscito Adolescenti e filosofi, sempre per Erickson e sempre con questa impronta, con questa dimensione di educazione alla filosofia, ma non solo per giovani e studenti, in quanto sia lui che questo mondo insomma viene dalla scuola e quindi dalle problematiche pedagogiche, ma si rivolge ovviamente anche a tutti. Io devo trattenermi e cercare di limitare la mia chiacchiera, diciamo, perché vorrei raccontare un po' tutto del libro, visto che l'ho letto e mi è piaciuto, ma devo tenere anche per il pubblico un po' di mistero per l'autore, perché se no insomma non ha senso questo libro, poi nessuno lo compra se si racconta tutto, e quindi teniamo un po' di mistero anche perché c'è un giallo dentro a questo libro, no? Sembra tanto un libro filosofico, e lo è, un libro di ampia e profonda filosofia, ma c'è anche uno spunto noir, diciamo così, uno spunto thriller quasi, sia all'inizio che alla fine, che anche dentro un po', e c'è una dimensione anche narrativa, insomma, no? Non è solo didascalico, non è solo una lezione, una carrellata tra i filosofi. Di filosofia ce n'è tanta, quindi tenetevi forte, perché chi lo vuole leggere, comprare, eccetera, avrà ampio spazio per cavalcate filosofiche che vanno dai presocratici fino a Heidegger e a Hannah Arendt, insomma, e quindi c'è tutto il percorso della filosofia occidentale, ma anche con qualche riferimento alle teorie, alle basi filosofiche più del resto del mondo e soprattutto dell'Oriente. Ma appunto, dicevo, limito la mia chiacchiera perché già dalla copertina volevo invitarvi a guardarla. Anche qui c'è un dipinto, si parte con un dipinto molto indicativo, è Caspar David Friedrich, no? Un dipinto famoso dell'inizio del Romanticismo, il viaggiatore di fronte al mare di nudi, così un po' sfumato sullo sfondo, e che sta evidentemente ad indicare un qualcosa, quello che è e che vuole essere il filosofo, un distacco, un certo qual distacco, non che non abbia le sue passioni, ma una certa distanza anche dalle cose per sottoporle costantemente a critica e per valutarne tutti i rapporti e le relazioni, e anche poi col proprio io e con la propria vita. E poi un'altra piccola provocazione: se qualcuno di voi vuole digitarsi su Google Map la località Kaoria, Valle del Vanoi, scoprirà anche qui un addentellato molto eloquente rispetto al tuo libro, Loris, perché Kaoria, Valle del Vanoi, nel Trentino orientale, meridionale, orientale, da non confondersi con Kaoria Gfrill, che è in Sud Tirolo, piccola frazione del comune di Salorno, a 1300 metri, però il nome di entrambe queste località evidentemente tradisce, forse credo, l'attività prevalente che c'era in passato, insomma. Ecco, vedrà che c'è in questa piccola località, in questa piccola valle, tra Val Sugana, Canal San Bovo, Fiera di Primiero, il cuore della storia che qui viene raccontata. Perché? Perché appunto tutto nasce, si sviluppa con un artificio narrativo ingegnoso da una passeggiata che viene fatta appunto a Kaoria da un giovane adolescente, Leonardo. E qui appunto viene subito la domanda un po' che vorrei porre immediatamente anche al nostro Taufer, professor Taufer, che è già stato presentato, ma bisogna dire anche che era un pedagogista, è stato dirigente scolastico, insegnante, professore di filosofia nei licei, giornalista, scrittore, che si è sempre occupato di problematica pedagogica, in particolare facendo riferimento alla pedagogia fenomenologica con il suo maestro Piero Bertolini di Bologna, e quindi un tipo di approccio pedagogico che va alla ricerca di senso nelle cose, insomma, che non si accontenta delle tecniche didattico-pedagogiche, ma che si muove nella ricerca, no? Ecco, volevo chiedere appunto a Loris quali sono, immediatamente venendo al titolo, queste radici nascoste che sono appunto indicate nel titolo. Sono le radici nascoste dei protagonisti, le radici nascoste del paese, della località del Trentino che è qui trattata, le radici nascoste tue, della tua visione della vita? Facciamo il piano? Sì. Beh, allora, intanto... Intanto grazie a tutti quanti voi di aver voluto partecipare a questo tardo pomeriggio piuttosto piovoso, a una conferenza, questo dialogo, insomma, che magari non so fino a che punto può essere proprio interessante. Quindi vi ringrazio assolutamente della partecipazione. Ecco, per quanto riguarda la domanda di Carlo, le radici nascoste, ma allora il tentativo che faccio nel libro è un po' quello fare un percorso filosofico con un adolescente, ma potrebbe essere comunque gli adolescenti di oggi e anche di ieri, un percorso con un adolescente nel quale si cerchi costantemente di interagire con la sua soggettività, perché quel che penso, insomma, ritengo per quanto riguarda l'insegnamento della filosofia è il fatto che noi abbiamo una tradizione, insomma, no? Cioè nella scuola italiana, di un insegnamento che per adesso per lo più, insomma, è di carattere storico, no? Cioè si fa storia della filosofia, ma molto spesso credo che si tenga poco conto, insomma, no? Cioè della soggettività degli adolescenti. Quindi il tentativo, insomma, ecco, che faccio in questo libro, che in qualche modo è un po' in continuità con l'altro a cui faceva riferimento Carlo, anche se l'altro era indirizzato agli insegnanti, questo invece si rivolge direttamente agli adolescenti. Il tentativo è quello di tenere dentro, insomma, questo adolescente in un viaggio, in un percorso che gli dia certamente degli strumenti interpretativi della realtà, e fra l'altro lo faccia nella maniera più rigorosa possibile, quindi avvalendosi di citazioni, facendo i conti con quel testo, insomma, con i testi filosofici. Però accanto a questo il tentativo è quello di interagire, insomma, no? Cioè i due protagonisti qui, appunto l'adolescente e un saggio, un mentore, cioè i due protagonisti, no? Costruiscono in qualche modo un rapporto, e all'inizio questo rapporto è anche un rapporto in cui l'atteggiamento dell'adolescente è piuttosto ostico, cioè l'adolescente in qualche modo si ritrae rispetto alle proposte del mentore. Fra l'altro, anche qua nel percorso, accennava bene Carlo, il percorso si sviluppa attorno a alcuni grandi temi, ma in questi grandi temi si cerca di esplicitare in qualche modo anche il meglio della filosofia occidentale. Comunque si fa una scelta, insomma, che dia degli strumenti importanti per costruire un po' il quadro della filosofia occidentale. Dicevo, in questo percorso l'adolescente spesso si ritrae, come succede anche nelle nostre scuole, come succede spesso con ragazzi di 16 anni, insomma, no? Che cominciano a occuparsi ad esempio della questione dell'essere, cioè la questione ontologica, occuparsi di Parmenide, occuparsi del sofista di Platone, insomma. E quindi c'è questo atteggiamento, no, dell'adolescente per cui si ritrae, cioè oppone resistenza, insomma, no, al dialogo col mentore. Però, dicevo, in questo viaggio, in qualche modo anche in maniera nascosta, cioè rispetto al dialogo esplicito, che cosa fa il saggio? Costruisce dei quadri, in qualche modo alle spalle del ragazzo, senza che il ragazzo se ne renda conto, costruisce dei quadri, sono dei quadri storico-narrativi, che hanno a che fare certamente con questo microcosmo che è il mondo di C. Adesso io non nomino Cauria, anche se è esplicito dalla bibliografia, insomma, è esplicito, cioè, dalla mia biografia, eccetera, insomma, che assolutamente non rinnego. Però parlo del mondo di C, proprio per dare in qualche modo un carattere, diciamo così, paradigmatico a questa, a questo mondo particolare anche collocato anche storicamente tra Tirolo e Veneto. E in questi quadri il mentore appunto definisce, no, sia delle caratteristiche storiche sia anche delle caratteristiche che hanno a che fare con la dimensione narrativa, narrativa letteraria. Ma questo perché? E qui le radici nascoste. Questo perché sono assolutamente convinto che se noi ci poniamo nella logica del filosofari, se noi ci poniamo nella logica del far filosofia assieme nella scuola tra un adolescente e il proprio docente e la propria comunità classe, se noi ci poniamo in questa logica del filosofare, non solamente quindi, no? Cioè dell'assumere passivamente delle nozioni di filosofia, c'è tutto un ambito che sono queste radici nascoste che in qualche modo deve essere tenuto in considerazione, perché pesa nella costruzione identitaria dei ragazzi come pesa nella costruzione identitaria di ciascuno di noi. Cioè, allora, siccome la vicenda è ambientata in questo microcosmo, che è il microcosmo di G, che è collocato chiaramente insomma nella valle del Vanoi, nel Trentino orientale, eccetera, eccetera, ma in questo microcosmo di C, no, ci sono delle vicende, ci sono delle storie, ci sono, diciamo così, appunto, no, dei percorsi anche di generazioni precedenti il ragazzo in questione, che pesano sulla costruzione identità del ragazzo. Fra l'altro, ecco, io qui tengo presente solamente due autori, certamente Dewey, John Dewey, pedagogista, il quale sappiamo perfettamente, no? Diceva che in qualche modo la geografia, il dove si è nati, in qualche modo costituisce anche il nostro percorso conoscitivo, costruisce, no, il nostro modo di aprirci al mondo. Quindi indubbiamente c'è questa suggestione di Dewey, ma poi anche altro, ad esempio di recente anche un psicanalista, Romano Madera, ha scritto una serie di libri, ma anche un libro abbastanza interessante, in cui parla ad esempio di un groviglio di influenzamenti culturali, un sottofondo che spesso non viene nominato, no, nella costruzione identitaria delle persone, che però pesa enormemente sul nostro modo anche di fare i conti con la conoscenza, sul nostro modo di fare i conti con la filosofia. Per cui, ecco, e qui chiudo rispetto alla domanda di Carlo, il tentativo è proprio questo, insomma, il tentativo è quello di certamente offrire, no, degli strumenti per quanto riguarda le radici esplicite, per quanto riguarda la conoscenza occidentale, per quanto riguarda la filosofia. Quindi qua, ecco, io cerco, insomma, no, cioè di proporre un percorso che abbia un senso e che sia un percorso non banalizzato, ma che sia rigoroso dal punto di vista delle citazioni, dal punto di vista dell'utilizzo dei testi, da una parte. Dall'altra però, no, ho a cuore questa dimensione, questo sottofondo che spesso viene snobbato, ma viene snobbato nella scuola, ma forse viene snobbato anche negli ambienti intellettualmente alti. Cioè, questo fondo viene in qualche modo messo fra parentesi, non viene considerato. Ecco, io credo invece, no, che la costruzione dell'identità di un adolescente, ma di ciascuno di noi, debba fare i conti anche con queste radici nascoste. Un discorso dubbiamente suggestivo che sicuramente viene trascurato, diciamo così, nelle sedi istituzionali della formazione, perché non si lavora tanto, mi sembra, sulla soggettività dei ragazzi, sulla loro origine, sul loro modello di provenienza, o lo si fa solo indirettamente, magari lo si fa a certi livelli di scuola, ma nelle scuole superiori o nelle sedi universitarie quasi non esiste, direi, questo tipo di approccio che, come tu dici, può portare, assieme ad altre conoscenze, alla migliore costruzione della propria identità, della propria soggettività, la consapevolezza su chi siamo, da dove veniamo, insomma, anche, e possibilmente anche dove andiamo, visto che tu citi anche più volte Heidegger, no? L'esserci e l'esserci per il futuro, insomma, un esserci, un essere e un esserci per quello che sarà il destino futuro, e quindi apri molto, diciamo così, anche alla trascendenza. Non a caso parti in questo dialogo tra il giovane Leonardo che precipita in una specie di grotta e l'incontro fortuito con il vecchio saggio, il vecchio mentore, nel quale direi che ti identifico anche in un certo senso, non so se tu ti ritrovi in questo, ma sicuramente per il tuo approccio, non tanto per il vecchio, ma per il mentore e per l'educatore, o comunque il maieuta, chiamiamolo così, questo amico saggio, il vecchio saggio, tu lo chiami sempre, questo vecchio saggio che inizia questo dialogo che si protrae anche molto a lungo in una specie di limbo tra il giovane e il vecchio, e parte non a caso da un testo molto pesante, insomma, parte dall'essere, la problematica dell'essere, non è uno scherzo, col giovane Leonardo che non a caso, tu hai detto, risponde, è piuttosto refrattario, piuttosto ostico all'inizio, è tutto un battibecco, insomma, fra lui e il vecchio, solo a poco si scioglie il rapporto. Quando gli propone di occuparsi dell'essere, mi chiederai cosa c'entro io con l'essere, ma il giovane gli risponde: effettivamente io non ho mai sentito nessuno parlare di questo, di certo non i miei amici o le mie amiche, neanche quelli più secchioni, e non ho mai ascoltato discorsi su un argomento simile, neanche presso persone adulte che anzi mi sembra abbiano tutt'altro a cui pensare. Forse alle medie avevo una professoressa che parlava di essere, sì, ma il verbo essere, insegnava grammatica, ma era una gran palla e non vorrei certo tornare su quelle vecchie questioni. E anche successivamente gli risponde: sei sempre così serio nel parlare, le tue riflessioni non mi entusiasmano per niente. Quindi lo stronca di brutto anche, ma il vecchio torna alla carica e continua a riproporgli questi temi da cui si parte, e qui forse potrebbe venire buona la lettura di questo primo brano, forse, no, signora Monica, sull'essere, proprio dal capitolo sesto, mi sembra. Discussione dato tempo. Facciamo dopo. Ah, ecco, sì, abbiamo saltato la prima, ma poi ci torniamo. Parliamo dell'essere. Leonardo riuscì a stiracchiarsi e con grande fatica si sollevò leggermente per appoggiare la schiena contro un grosso arbusto. Il vecchio saggio riprese quindi a parlare. Vorrei che prendessimo in considerazione, assieme, un argomento filosofico che probabilmente ti sorprenderà e ti apparirà quanto mai astruso e strano. Questo tema è quello dell'essere, di ciò che è. Mi chiederai: che cosa c'entro io con l'essere? Che cosa può interessare alla mia vita una questione tanto lontana, così estranea anche agli argomenti che quotidianamente i giovani trattano tra di loro? Effettivamente, rispose il giovane, non ho mai sentito nessuno parlare di questo. Di certo non i miei amici e le mie amiche, neanche quelli più secchioni. E non ho mai ascoltato discorsi su un argomento simile, neanche presso persone adulte, che anzi mi sembra abbiano tutt'altro a cui pensare. Forse alle medie avevo una professoressa che parlava di essere, insegnava grammatica, ma era una gran palla e non vorrei di certo tornare su quelle vecchie questioni. Eppure ti assicuro che trattare dell'essere vuol dire parlare di noi, della nostra vita, del nostro modo di stare al mondo e di intendere il rapporto tra la vita e la morte. Vedi, io sto tentando di suscitare in te un qualche interesse per questa forma di sapere che è la filosofia, in modo che tu possa poi eventualmente approfondirla e studiarla autonomamente. Però, nel mio sforzo di rendertela accessibile, non voglio di sicuro banalizzarla. Se facessi questo, se cioè tradissi le caratteristiche più vere di quel che hanno detto i filosofi sui diversi temi, allora verrei meno al mio compito di introdurti in maniera corretta e rispettosa al pensiero filosofico. Al di là di questo pericolo, sono comunque convinto che la questione dell'essere sia fondamentale per ciascuno di noi, a partire da me stesso, ma anche per te e i tuoi amici, e magari per coloro che un giorno potrebbero interessarsi ai nostri discorsi. Sì. Qui poi il vecchio saggio introduce con argomenti piuttosto pesanti questa questione dell'essere, addirittura partendo dalla logica. Al che c'è la reazione del ragazzo, insomma, cioè, effettivamente qui diciamo che l'approccio è stato troppo alto rispetto alle caratteristiche del ragazzino, insomma, no? E quindi c'è la sua reazione. Il vecchio tacque e rimase in attesa della reazione del suo interlocutore. Passò il tempo. Il ragazzo, un po' infastidito e taciturno, rimaneva sulle sue. Sembrava proprio non voler dire nulla. Alla fine smontò. Ma cosa devo fare? Dire che ho capito quando in realtà mi sembra un gran discorsone che non porta da nessuna parte? Se la filosofia è qualcosa che devo studiare a memoria, come tante altre materie, dimmelo. Quando avrò voglia e tempo, magari lo farò. Però questa filosofia non è qualcosa di divertente e leggero come dicevi tu. È uguale a tutto il resto. Il vecchio saggio si rese conto che il ragazzo aveva avuto qualche difficoltà a seguire il suo ragionamento e anche che fra loro c'era stato un fraintendimento. Si rivolse quindi a Leonardo con parole concilianti. Mio giovane amico, forse ci siamo intesi male. Quando ti dicevo, introducendo la filosofia, che ci sono alcune domande ricorrenti in questa forma di pensiero, alcune costanti, le chiamavo direzioni intenzionali originarie, che si presentano continuamente nelle riflessioni del genere umano, facevo riferimento anche al divenire del pensiero filosofico, ai cambiamenti intercorsi dal punto di vista storico. Con tali innovazioni e mutamenti bisogna fare i conti. Questo ci dà consapevolezza anche del progredire della storia, ci rende chiaro come la nostra vita, così importante per ciascuno di noi, si ponga in un determinato periodo di tempo, ma anche come vi siano moltissime vicende accadute prima nel mondo. Non a caso qualcuno ha detto che noi siamo come nani sulle spalle di giganti. Un aforisma attribuito originariamente a Bernard de Chartres, nato in Francia nel 1080 circa e morto dopo il 1154. I giganti sono coloro che prima di noi hanno dato un apporto significativo al divenire della cultura. Per questo ha senso, ammetterai, studiare la storia, le filosofie nei precedenti, le scoperte scientifiche realizzate nelle diverse epoche e così via. Perché questo ci fa intendere chi siamo noi oggi, da dove veniamo e quali difficoltà gli uomini hanno dovuto superare per arrivare al mondo contemporaneo. E sicuramente questo comporta anche fatica. Diciamolo chiaramente, questo necessita studio, forza di volontà, sacrificio. La vita non può essere sempre solo divertente e leggera. Bisogna saper fare questo e quello, spassarsela, godersela, andare dove si vuole, ma anche essere in grado di far fatica, studiare e tenere fede agli impegni assunti. Lo so che per questo potrei essere accusato di paternalismo, di ergermi come un padre che vuole dare indicazioni certe al proprio giovane interlocutore. Però credo che tutto ciò sia per molti versi inevitabile. In fondo la tua crescita passa attraverso il superamento della mia figura, attraverso l'uccisione del padre, come si dice in senso metaforico. Ma affinché questo sia possibile, è necessario che tale figura ci sia, seppure in maniera provvisoria per un tempo determinato. Mi avevi fatto un discorso diverso, ribatté il ragazzo. Sembrava che tu fossi chissà chi, e invece sei come gli altri, con le tue menate su ciò che è importante nella vita. Mi dispiace per questo equivoco, forse non ti avevo chiarito bene quel tale punto. Però ti prometto questo, non indugerò sulla storia della filosofia, nel senso che non mi soffermerò a ricostruire per te il pensiero di un filosofo dopo l'altro, in contrapposizione o in continuità fra loro, solo per accrescere la tua erudizione. Come dicevamo all'inizio, vedremo alcune grandi questioni che possono esserti utili nella vita, perlomeno sul piano di ciò che ciascuna persona dovrebbe conoscere, come elemento di confronto rispetto al quale costruirti un tuo solido punto di vista. Questo è quello che farò assieme a te. Ecco, qui se questa parte è terminata, si vede chiaramente che c'è questo dialogo e questa costruzione, diciamo, assieme, quasi in senso ermeneutico un po', non è un circolo ermeneutico, non è una comunità, è un dialogo a due, indubbiamente, che risente di questa difficoltà anche iniziale, di questo tornare indietro in certi momenti, questo andare avanti, questo capirsi, questo fraintendimento rispetto al giovane scalpitante che vorrebbe cose pratiche, concrete, e l'altro richiamo invece più a una riflessione attenta. Però in tutte queste pagine, direi, si sente proprio la presenza di una visione fiduciosa nella capacità, nella possibilità che la filosofia incida, che riesca a essere utile per la vita. Esattamente il contrario di quello che spesso si sente dire la filosofia, insomma, è una riflessione che non serve a nulla. La filosofia incide proprio per dare questa consapevolezza, questa capacità critica, questa capacità di comprensione di ciò che siamo e di ciò che siamo stati, evidentemente, e di ciò anche che vogliamo. Quindi il libro è pervaso da tutto ciò, da questa ricerca faticosa, ma nello stesso tempo direi fiduciosa. Una cosa che colpisce molto, a me personalmente mi ha colpito un po', la compresenza di questi capitoli più appunto didascalici, che illustrano per anche, diciamo, lunghe esposizioni filosofiche, sempre fatte con un linguaggio amichevole ma estremamente rigoroso nella scelta proprio dei testi. Non a caso c'è per ogni autore c'è la precisa virgolettata esposizione del brano prescelto, questo dai presocratici fino a Hegel, Kant, eccetera. Basta leggersi la bibliografia. Però sono capitoli appunto di esposizione filosofica, con capitoli che trattano essenzialmente quelle 5 o 6 direzioni essenziali a cui abbiamo fatto riferimento e che sono corrispondenti a quegli altrettanti, diciamo, problemi o temi filosofici, diciamo così, perenni, dalla questione dell'essere alla questione della trascendenza, alla questione della polis, la politica, il rapporto con la politica del giovane, alla questione dell'amore. L'amore, c'è un capitolo bellissimo su amore e bellezza, in cui interviene anche un altro personaggio, Mnemosine, la memoria, alla questione della conoscenza e il rapporto tra conoscenza e prassi. Ecco, su queste alcune direttrici si incanalano le posizioni tenute dai vari più significativi, almeno a tuo parere, esponenti della nostra filosofia occidentale. Però uno potrebbe essere colto da un certo stupore, perché di punto in bianco, alla fine di un capitolo come quello sull'essere, si apre con un capitolo storico, irrompe un quadro storico. Un quadro storico che apparentemente non ha nulla a che fare con la precedente trattazione. E allora abbiamo vicende, personaggi, uomini e donne, storie del passato e del presente, ma soprattutto del passato, di questo microcosmo, che rappresenta poi un po' la vicenda umana e il divenire umano quasi ad ogni latitudine e in ogni realtà. Ma si parla degli anabattisti, si parla della lotta dei contadini, si parla della prima guerra mondiale, si parla della emigrazione dei trentini, fatti storici molto precisi, si parla del 68 e via dicendo. Prima di leggere uno di questi brani, che a me è piaciuto molto, mi piacciono molto questi capitoli storici, vorrei chiederti ancora, forse tu l'hai già detto prima, ma vorrei che lo spiegassi meglio, come si intrecciano col resto della trama, come si mescolano con il dialogo filosofico tra il mentore e Leonardo. Perché sì, irrompono molto. Sì, questo è assolutamente giusto, dovete avere un quel che cercarlo. È chiaro che all'inizio c'è anche una nota nel libro in cui si dice che ci sono tre tipi di lettura del testo. Una è evidentemente quella che legge tutti i capitoli, insomma, no? Cioè dal primo al diciassettesimo. La seconda è quella che eventualmente vuole vedere solamente le parti filosofiche, cioè i capitoli in cui si trattano queste grandi questioni, questi sei temi, insomma, no? Fondamentali nella costruzione dell'identità del ragazzo, per quanto attiene almeno l'apporto della filosofia. Poi c'è un'altra lettura che potrebbe essere fatta anche comunque, per quanto riguarda quindi solamente la parte, diciamo, storico-narrativa dei capitoli, ma che non solamente ha a che fare con quel tipo di utenza. Fra l'altro devo dire che abbiamo presentato l'altro giorno il libro a Trento, probabilmente faremo un'esperienza anche in una scuola, insomma, del primiero, di presentazione con i ragazzi, forse anche un'altra cosa a Trento, eccetera. Insomma, bisogna spiegare un pochino le caratteristiche del libro, perché effettivamente c'è un salto da un capitolo all'altro, però un salto voluto, insomma. Cioè un salto voluto, uno per farsi leggere, perché in qualche modo alleggeriscono, no? Un artificio, insomma, che alleggerisce un pochino la lettura. Sei capitoli sulle grandi questioni, insomma, eccetera, letti direttamente da un adolescente, da un ragazzo, insomma, non è semplice, ecco. Sì, si può fare, ecco, certo, però insomma può essere piuttosto noioso, ecco. Quindi diciamo che la logica è quella di alleggerire un pochino la lettura, di star dentro una vicenda, una vicenda che inizia proprio dal primo capitolo, insomma, no? Cioè una vicenda della quale questo adolescente si perde in montagna, cioè in medio cade, perde conoscenza, eccetera, e quindi star dentro questa vicenda letteraria, narrativa, c'è questo artificio, insomma, c'è questo senso, insomma, anche di proporre capitoli di questo tipo. Però poi c'è quello che dicevo prima, cioè io sono appunto convinto che ci sono tante C punto nella nostra realtà, ci sono tanti luoghi, okay? Tante storie familiari, tante vicende anche non conosciute che invece dovrebbero essere portate alla luce, perché contribuiscono all'identità delle persone, ma contribuiscono soprattutto a creare anche responsabilità, senso civico, consapevolezza storica. Quindi ecco, anche da un punto di vista pedagogico, anche da un punto di vista formativo, io non ritengo inutili questi capitoli. Io ritengo che questi capitoli abbiano un senso perché fanno vedere, in questo caso a chi lo legge, auspico adolescenti ma non solo, fanno vedere che la nostra realtà è una realtà complessa. Per adesso quei capitoli appunto hanno a che fare con questo microcosmo. Questo microcosmo, secondo me, è anche interessante anche da un punto di vista antropologico, perché in quella zona certamente ci sono stati delle immigrazioni, no? Nel XIV e XV secolo, di questi minatori provenienti dalla Baviera, provenienti dal nord, eccetera, che erano i Bergknappen, i quali in quella zona hanno sconvolto per molti versi quello che era il mondo precedente. Cioè a un certo punto in quella zona arrivano circa 3.000 Bergknappen, tra Bergknappen e chi in qualche modo è addetto alle diverse mansioni e ai diversi lavori, e questo sconvolge la vita di quelle comunità. Tra l'altro poi questi se ne andranno, però lasciando ad esempio anche dei, cognomi tedeschi, eccetera, eccetera. E accanto a questo, poi fra adesso questi Bergknappen, alcuni partecipano anche, no? Partecipano a quella che era alla guerra dei contadini, no? nel 1525, alla Bauernkrieg. E soprattutto poi c'è anche un intreccio con questa questione dei, molto, secondo me anche molto interessante, dei anabattisti, dei Wiedertäufer, no? Cioè anabattisti, cioè questa setta che è stata poi completamente eliminata, soprattutto dopo il Concilio di Trento, cioè dalla Chiesa cattolica. Gli anabattisti sono stati sterminati, e gli anabattisti in Tirolo erano molto presenti, in tutto il Tirolo. Il Tirolo era una delle zone dove gli anabattisti erano più forti. Schwarza, ad esempio, centro minerario del Tirolo del Nord, l'80% a un certo punto della popolazione era anabattista. Gli anabattisti, fra adesso, nella nostra zona del Tirolo storico, erano soprattutto butteriti, no? Da in qualche modo seguaci di Jacob Hutter. Ecco, queste vicende qui, secondo me, devono essere conosciute da chi abita magari quelle zone, ma non solo, devono essere conosciuti, come secondo me devono essere conosciute alcune cose anche clamorose che hanno a che fare anche con quelle zone lì. Ad esempio, ecco, io cito sempre, insomma, ecco, questa questione di Isernia, insomma, cioè dopo la prima guerra mondiale, il 4 novembre del 1918 c'è la firma dell'armistizio in quella zona, che era zona di guerra, era zona distrutta, insomma, no? dalla guerra che si era combattuta tra le truppe italiane e le truppe austro-ungariche. Tornano questi ex kaiserieri, perché chiaramente questi erano tutti i 60.000, insomma, trentini che erano stati arruolati nell'esercito austro-ungarico, tornano, no, lentamente nei loro territori. E qui il sabato 16 novembre del 1918, sulla chiesa di C. Punto, sulla chiesa di Cauria, ma anche a Fiera di Primiero, eccetera, compare un editto militare in quale convoca gli ex combattenti nell'esercito austro-ungarico per lunedì 18, due giorni dopo, li convoca perché devono essere portati in Italia. Vogliono fare vedere la bella Italia agli ex combattenti dell'esercito austro-ungarico, magari li vogliono portare a vedere il Papa. Questa è la scusa. E di fatto, in due giorni dopo, no, in tutta la zona, 497 della zona del Primiero, 497 primierotti, no, vengono avviati a piedi verso Feltre, quindi anche col freddo, in pieno inverno, eccetera, eccetera. Prenderanno poi il treno, saranno caricati su un treno a Cittadella, saranno poi portati nel Molise, a Isernia, nel Molise. Non vedranno assolutamente il Papa, non vedranno l'Italia, eccetera. Sono internati in cinque chiese sconsacrate al freddo, con una scarsità di mangiare, con malattie. Vengono tenuti in carcere lì fino al gennaio del 1919. Cinque di loro sono ufficialmente morti, ma probabilmente ce n'erano altri, e poi torneranno lentamente, no, alle loro case, eccetera. Anche questa è una vicenda poco conosciuta, è una vicenda che la storia, diciamo, no, ufficiale, salvo questa studiosa ladina che è la Pella, Luciana Pella, Luciana Palla, oltre alla a memorie familiari, ecco, ma è una vicenda no, in genere sconosciuta. Anche questo io credo che debba essere un elemento che arricchisce la costruzione identitaria delle persone, accanto a tutto il resto. Queste sono radici nascoste che secondo me non devono essere cancellate, ma devono essere in qualche modo anche visitate, perché hanno a che fare soprattutto anche con le storie familiari. A lungo, ad esempio, queste storie qua sono state raccontate nelle famiglie, ma era anche un po' pericoloso dirle apertamente, insomma. Ecco, possiamo sentire questo breve brano su Isernia, come viene raccontato nel romanzo. La vicenda di Isernia. Il treno procedeva lentamente, trainato da una locomotiva a vapore che lanciava alti sbuffi nell'aria. I vagoni militari erano aperti e un vento freddo entrava da tutti i lati, indirizzando gli uomini ammassati sulle panche di legno, uno accanto all'altro. La giornata era gelida e si era da poco superata Bologna. Si vedevano alcune colline in lontananza, coperte da nubi grigie che ne nascondevano i contorni. La campagna attorno alla linea ferroviaria sembrava abbandonata. Solo di tanto in tanto emergevano alcune casupole, con un po' di aia, attrezzi da lavoro, poca legna accatastata malamente. Qualche filo di fumo usciva dai comignoli sottili che si ergevano sui tetti. Ormai le ore di viaggio erano state parecchie e un pensiero fisso gli attraversava la mente. Sarebbe stato meglio saltare giù dal treno quando questo ogni tanto rallentava la sua corsa, oppure conveniva rimanersene seduto aspettando di arrivare a Roma, che non aveva mai visto prima? Quando con altri 500 uomini della zona di C-497, a dire il vero, aveva iniziato quell'avventura, le autorità militari che lo avevano convocato gli avevano detto che avrebbero fatto un viaggio per conoscere la bella Italia. E i carabinieri, i quali li avevano scortati, avevano ribadito che li avrebbero portati a Roma a vedere il Papa. La storia però era un po' strana e anche dolorosa. Con altri commilitoni dello sconfitto esercito austro-ungarico, era rientrato al suo paese pochi giorni dopo l'armistizio del 4 novembre 1918. La prima guerra mondiale era finita. L'impero di Asburgo non esisteva più. L'Italia aveva vinto e i territori attorno a C, come gli altri del vecchio Tirolo, sarebbero stati annessi allo Stato italiano. Da tirolesi, i quali erano, si trovavano ad essere ora cittadini italiani. Ritornare nelle proprie valli e trovare i paesi devastati dalle operazioni militari che erano avvenute in zona, le case occupate da masserizie di ogni genere lasciate dai soldati italiani e austriaci, i campi e terreni abbandonati da anni, mine e armi sparse un po' ovunque, baracche militari dove un tempo c'erano animali e riserve di cibo, aveva il sapore della disperazione, della desolazione terribile della guerra, della sua insensatezza. Lui però era tornato vivo da quell'immane conflitto, aveva portato a casa la pelle, mentre per altri non era andata così. Tanti, troppi erano stati morti, soprattutto nelle zone dei Carpazi e della Galizia. Aveva scollinato il passo Sadole per tornare e, man mano che si avvicinava a C, incontrava persone del posto. Tante non le riconosceva, altre, dopo anni di sofferenze, erano enormemente cambiate. Anche lui, con addosso ancora i brandelli della divisa dei Kaiserjäger, era invecchiato parecchio. Quegli incontri avevano un che di mesto e triste, ma in fondo agli occhi, in quegli sguardi che si incontravano pieni di dolore e di rimpianto, c'era anche la speranza di iniziare una nuova vita, addirittura il ghigno di chi è sfuggito alla morte. Ritrovati i suoi cari, quelli che erano sopravvissuti, aveva subito cominciato a lavorare, a tagliare le piante che invadevano le case, a risanare, a raccogliere il materiale della guerra, a ripulire. C'era tantissimo da fare. La campagna da ripristinare, le stalle da riempire, i boschi abbandonati da coltivare. E poi continuavano ad arrivare commilitoni, profughi dall'Italia e dall'Austria, parenti e conoscenti. Fino a quel giorno, sabato 16 novembre 1918, quando venne affisso sul portone della chiesa un bando militare a firma del commissario civile maggiore Catelli, nel quale si invitavano tutte le persone già appartenenti all'esercito austriaco e rientrate nelle loro case dopo la ritirata a presentarsi alle locali autorità militari per essere inviate in Italia. La presentazione, si diceva nell'avviso, doveva effettuarsi entro la giornata di lunedì prossimo 18 corrente mese e si davano delle indicazioni sulle località in cui ci si doveva radunare. Due giorni di tempo e per essere inviati in Italia. Era stato un fulmine a ciel sereno. La guerra era finita. Si erano mai entrati nelle proprie case, c'erano distruzione, fame e disperazione ovunque, ma anche tanto lavoro da fare e un certo fervore per ricominciare, e bisognava abbandonare tutto per essere mandati in Italia. Per fare cosa poi? E dove li avrebbero portati? Il primo pensiero istintivo fu quello della fuga. Avrebbe voluto ripassare Sadole, andare verso nord, forse nel Vorarlberg, dove aveva soggiornato per alcuni anni da ragazzo, impiegato nelle fabbriche tessili della zona. O forse semplicemente avrebbe preferito darsi alla macchia nelle vaste foreste intorno a C. Alla fine però era prevalsa la decisione di rimanere, di obbedire alla legge, come aveva sempre fatto, e all'intimazione militare di presentarsi agli appuntamenti indicati. E poi non era il solo, c'erano tanti suoi paesani, commilitoni, ex Kaiserjäger e Landesschützen. I carabinieri italiani di un paese vicino dicevano a tutti che quello in programma era una sorta di viaggio di informazione e che al massimo entro 15 giorni sarebbero ritornati alle loro famiglie. Dopo 2 giorni tremendi di attesa, lunedì 18 novembre si ritrovò con gli altri al comando militare di zona, da dove i poveri reduci, scortati da soldati e da carabinieri, partirono a piedi verso Feltre. Quindi vediamo questo mondo, diciamo, multietnico, multiculturale dell'impero austro-ungarico che frana, crolla, in cui anche il piccolo mondo di C, di cui faceva parte questo piccolo mondo di C, che viene sconvolto perché entrano a far parte del regno, diventano regnicoli, come chiamavano appunto gli abitanti del Welschtirol, no? Chiamavano gli abitanti del Regno d'Italia, e questo scombussolamento, questo travolgimento, insomma, fa crollare anche molte sicurezze, molte piccole certezze che preesistevano precedentemente in questo ambiente che già di per sé aveva rappresentato un melting pot, diciamo così, perché l'elemento veneto, Feltre, Bassano del Grappa, sono immediatamente a ridosso del Primiero, e quindi in questo mondo di frontiera, che era questa piccola zona del Trentino meridionale, del Trentino orientale, già c'era stato un incontro e un miscuglio, una mescolanza dai secoli precedenti di elementi tedeschi, di elementi d'Oltralpe, di elementi addirittura boemi, slavi, cechi, appunto, perché le miniere che c'erano anche nella zona di Cauria avevano attirato nei secoli precedenti questa popolazione di cui abbiamo sentito prima parlare, che erano legate a questi Bergknappen, canopi, minatori, ma con tutto quello che avevano portato di tecniche, tecnologie, lingua, costumi, ambiente, che si era nei secoli mescolato, insomma, no? E aveva creato questa comunità della Valle del Primiero, della Valle del Banoi, in particolare di Cauria, che ora veniva di nuovo rovesciata in una adesione, diciamo così, tra virgolette, forzata alla realtà, diciamo, italiana. In poi in tutto il romanzo, no, ho visto appaiono figure nelle quali i protagonisti, la cittadina del mondo, ad esempio, una certa Aloisia, oppure l'emigrante trentino di Cauria che va in Brasile, fa fortuna, ma poi deve ritornare, e anche altri. Quasi sempre c'è anche un ritorno fisico alle origini, cioè ritornano a Cauria questi. Sembra quasi che la felicità e l'Eden, in un certo senso, si ritrovi solamente in queste radici, anche locali, localizzate in questo mondo di Cauria. Ti sembra vero questo? O è una mia interpretazione un po' malevola? Che ci venga fuori un pochettino il tuo, quasi una forma quasi di campanilismo. Ma forse ha ragione il Carlo, anche perché è il campanilismo di chi se n'è andato, e quindi mitizza quella situazione, no? Dove ci va l'estate, insomma. Ma no, questo che dice Carlo ci può stare, ecco. Però quel che vorrei dire è che cioè nel libro Sì, certo, ci sono questi capitoli, cioè, che è giusto che si sappia che sono assolutamente minoritari rispetto alla, al percorso filosofico, insomma, no? Cioè sia in termini di pagine che in termini di citazioni, eccetera, insomma, fra l'altro alcuni sono indubbiamente storici, per cui con l'ausilio di qualche storico molto più valente di me, insomma, ecco, ho ricostruito alcune identità storiche, mentre altri appunto sono più narrativi, però sono minoritari rispetto all'impostazione del libro, che insomma tiene presente soprattutto, ecco, la dimensione filosofica. Quel che comunque vorrei sottolineare anche rispetto a questa domanda di Carlo è che nella formazione del ragazzo io tendo a, forse anche sbagliando, ma tendo a, a sottolineare anche il rapporto positivo, il rapporto personale, no? Sia con questa realtà, sia anche con la proposta filosofica. Cioè, insomma, io penso che oggi, anche per quanto riguarda la nostra costruzione identitaria, per quanto riguarda l'identità di ciascuno di noi, certamente sia importante una dimensione comunitaria, quindi in questo caso il mondo di C, certamente sia importante il rapporto, no, col gruppo, pensiamo a quel che avviene nella scuola, quindi è fondamentale, insomma, no? È la dimensione di comunità che si deve costruire anche dentro la scuola, dentro le classi, eccetera, eccetera. Però fondamentale sia anche la dimensione individuale e la dimensione personale. Questo riguarda sia al ritornare a Cima, sia riguarda anche proprio al rapporto, no, cioè con le grandi questioni della filosofia, anche coi grandi temi della filosofia. Perché in fondo, ecco, in questo libro io mi pongo un po', oltre che in una dimensione glocalista, insomma, no? Perché questa dimensione del glocal è una cosa che coltivo da tanti anni, ecco. Ma in qualche modo faccio un po' i conti anche con un modo, no? Cioè di insegnare filosofia, di fare filosofia dentro la scuola, certamente critico, che è quello, insomma, no? Cioè di una filosofia fatta solamente in termini di storia della filosofia, però anche altri approcci, penso ad esempio alla Philosophy for Children o anche alla Philosophy for Teenagers, no? Sulla quale c'è stato e c'è in passato, ma c'è anche un grosso dibattito, ecco. Questo tipo di filosofia tiene presente certamente le dinamiche di gruppo, le dinamiche, no, dentro le quali ciascuno evidentemente è chiamato a confrontarsi e nelle quali cresce, però io sono convinto che la questione personale, cioè la questione individuale, sia qualcosa di fondamentale, perché ad esempio le comunità, cioè oggi i ragazzi hanno anche delle comunità online, insomma, no? Cioè possono anche interagire in questa maniera qui, ecco, quindi rispetto alle proposte, insomma, no? Cioè di un apprendimento che ha a che fare solamente col gruppo, che ha a che fare con la comunità, che ha a che fare con un ritorno, una comunità, eccetera, sia certo importante, ma ci debba essere anche la dimensione personale, il rapporto, no? Cioè cioè anche individuale, parlo soprattutto ad esempio con i testi di filosofia, cioè questa coltivare, insomma, anche questo rapporto, insomma, anche con la durezza dei testi di filosofia, ma insomma enfatizzare, sottolineare, valorizzare la dimensione personale, credo che sia qualche cosa di fondamentale, perché, e qui chiudo, tutto sommato anche nel libro c'è, io credo, insomma, almeno questo è anche un po' lo sforzo, una tendenza un pochino alla trascendenza o a trascendersi, andare oltre, insomma. Quindi anche sì, certo, tornare a C è importante, ma per andare oltre ulteriormente, per trascendersi ulteriormente. E questo può avvenire se, certo, c'è sempre un dialogo dentro una comunità, quindi si valorizza questa dimensione della comunità, ma c'è sempre anche la dimensione personale, perché il dialogo poi diventa anche dialogo in qualche modo con se stessi. Ecco, io uno dei testi che richiamo alla fine è questo testo appunto di Martin Buber, nel quale parla, ad esempio, no? Cioè della dimensione del rapporto con l'altro, io, tu, la dimensione del dialogo, il ricercare in qualche modo anche dentro se stessi, il fare i conti con la comunità, ma alla fin fine però poi anche andare a imbattersi con quel nodo opaco che in qualche modo è dentro ciascuno di noi, e che forse questo ci porta a trascenderci, forse questo ci porta a riconoscere l'altro. Ecco, quindi questo è indubbiamente, questo ha, certo, si, diciamo così, si aggiunge al rapporto col gruppo per quanto riguarda la filosofia, si aggiunge al fare i conti con la comunità, in questo caso anche C, però salvaguardando, no, anche la dimensione forte della persona, dell'individuo, che in qualche modo è sempre chiamato a trascendersi, sia che si interagisca con un singolo posto del mondo, sia che invece faccia i conti, ad esempio, anche con la dimensione della filosofia occidentale. Sì, si vede molto bene questa ricerca che ciascuno deve fare all'interno di sé, insomma, anche per acquistare quella consapevolezza necessaria a un processo di crescita. Si respira questa dimensione educativa nella visione che hai tu della filosofia, che non è appunto un astratto, una strata carrellata galleria di filosofi, di erudizione filosofica, ma è sempre un interrogarsi su questioni alla fine e all'interno delle quali c'è la domanda interrogativa esistenziale principale su se stessi, sulla propria vita. Mi è venuto in mente, anche leggendo un po' il tuo libro e anche il libro precedente, quello del 2008, Adolescenti e filosofi, di farti anche questa domanda, no? Rispetto, diciamo così, al genere un po' letterario, no? Genere letterario anche di questo libro, una domanda un po' forse troppo da erudizione letteraria, ma insomma, potresti farlo rientrare, pensi che si possa far rientrare in quella che viene chiamata anche quella corrente della narrativa filosofica, questo libro, narrativa filosofica, romanzi filosofici? Tu hai parlato della filosofia per bambini, filosofia per ragazzi, filosofia per tutti, che talvolta, insomma, si vede citare. Una volta prese le distanze dall'approccio classico gentiliano, crociano, storico-filosofico, che, su quale penso che siamo un po' tutti d'accordo, ma una volta anche ribadito quello che tu hai detto, che bisogna comunque anche faticosamente fare i conti con la durezza e la fatica dei testi e della elaborazione fatta dai pensatori, questo tipo di metodo, diciamo così, no? A livello di metodologia dell'insegnamento, a livello di didattica poi anche della filosofia, come dici, come pensi che si possa porre oggi un discorso del genere, no? Sia per quel che riguarda il tuo scritto, questo romanzo, se lo possiamo far rientrare quasi in un discorso narrativo, sia nei confronti, diciamo, dell'educazione filosofica che viene fatta nelle scuole, se possa esserci una metodologia più adatta, diciamo, al momento attuale per i ragazzi. Beh, qui ci saranno certamente dei docenti di filosofia che potrebbero dire la loro, insomma, magari meglio di me, quindi se lascio spazio eventualmente anche a loro. No, credo di in qualche modo aver già un po' risposto prima, cioè è chiaro che ad esempio un testo a cui ciascuno di noi, insomma, ma anch'io in passato ho fatto riferimento, era quel, il mondo di Sofia di Gardner, il mondo di Sofia di Gardner, ecco, in cui c'era questa dimensione narrativa con la ricostruzione di una storia della filosofia, insomma, ecco. Tra l'altro, ecco, con alcuni, no, artifici letterari non di poco conto, insomma, no? E quello è un testo. L'altro testo, ad esempio, è la filosofia non è una barba, l'avete visto, insomma, di Matteo Saudino, che era uscito nel 2020, in cui anche lì c'è una ricostruzione della storia della filosofia a partire dalla morte dei filosofi, insomma, no? Analizzando le morti dei filosofi. A partire da là, ecco, si ricostruiva in qualche modo il percorso delle diverse filosofie. Come dicevo prima, ecco, io penso che, e poi c'è certamente tutta l'esperienza della filosofia Forcindere, insomma, no? Cioè della filosofia Forcindere di Lippmann, e pensiamo anche dei suoi epigoni italiani, insomma, no? Che ha scritto anche delle cose significative su questo. Ecco, però io sono convinto, ma probabilmente qui dipende dall'età, insomma, ecco, ma sono convinto che nella scuola italiana, se noi mettiamo fra parentesi, insomma, no? Cioè quell'approccio per cui semplicemente dice, ad esempio, il ragazzo, no? Nel libro si affronta un filosofo e poi quello successivo che reagisce con quello e poi l'altro ancora che reagisce con l'ultimo, eccetera, eccetera, in una logica, insomma, di storia della filosofia, insomma, in cui o al limite, ecco, di grandi correnti di pensiero, no? Cioè che si intrecciano o polemizzano fra di loro. Ecco, se noi mettiamo fra parentesi quel tipo di approccio, ecco, l'altra questione è proprio quella dell'affrontare la filosofia per grandi temi, cioè la questione delle grandi questioni. Ecco, questo diceva giustamente Carla, che io l'avevo anche proposto nel libro precedente, e quello ha a che fare con anche un certo tipo di impostazione pedagogica, insomma, che è quella appunto della pedagogia fenomenologica, insomma, no? Cioè soprattutto del gruppo che all'epoca si era costituito attorno a Piero Bertolini. Ecco, quel tipo di approccio è un approccio che mira soprattutto a una proposta generativa, no? Cioè nei confronti dei ragazzi, cioè si tratta di fare delle proposte filosofiche che interagiscano con i ragazzi in una logica, no, di risposte, in una logica generativa per cui i ragazzi, gli adolescenti, no, dovrebbero poi loro, da se stessi, insomma, no, ecco, costruire un percorso di crescita. Ecco, questo è indubbiamente qualcosa di utile, io credo, insomma, qualcosa di significativo. Ecco. Quel che, ad esempio, in questa logica io critico, insomma, fra virgolette, insomma, ecco, ma mi sembra, ecco, sulla quale non essere del tutto d'accordo, è l'approccio semplicemente problematico per problemi o maieutico, no? Per cui si tratta di porre ai ragazzi o ai bambini, nella filosofia Forcindere, e poi ai ragazzi, porre un problema, e attorno a quel problema, no, l'insegnante, da facilitatore più che da docente, costruisce un percorso di crescita dei ragazzi, che ha grandissimi vantaggi, che ha no, cioè grandissimi dati positivi. Ecco, io credo però, ribadisco quel che dicevo un po' prima, che il testo di filosofia, la filosofia, no, si debba affrontare nel gruppo ponendo una questione, trovando i materiali giusti, creando il dialogo dentro il gruppo, però il testo di filosofia richieda anche un approccio personale, individuale. Cioè io credo che oggi, insomma, con questa dimensione dialogica, dimensione, non dico relativistica, insomma, quasi, ecco, in una dimensione, insomma, in cui ciascuno tira fuori la propria opinione e pretende di imporla agli altri, insomma, no? sullo stesso piano degli altri, eccetera, eccetera. Ecco, io credo che un atteggiamento di maggior pazienza, un atteggiamento anche di sospensione del giudizio, no? Un atteggiamento per cui si tratta di fare i conti con quel che il filosofo dice, il testo dice, anche facendo fatica, interpretandolo, tornando indietro, affermando anche la propria incapacità o anche i propri limiti di conoscenza, ecco, questo tipo di atteggiamento credo che sia necessario accanto agli altri. Io non nego lavori di gruppo, non nego una logica, un approccio maieutico per temi, per problemi, eccetera, ma credo che oggi ci sia anche questo tipo di esigenza, fra l'altro anche rispetto alle nuove tecnologie, insomma. Perché le nuove tecnologie, noi sappiamo, insomma, anche velocizzano tutto, le risposte velocizzano anche, no? Gli atteggiamenti, le comunità si costruiscono anche online, insomma, i ragazzini fanno, no? Anche delle azioni perché si sono prima accordati online in un gruppo, no? che condivide un certo tipo di risposte, eccetera, eccetera. Ecco, io credo che, insomma, accanto anche nella scuola, insomma, accanto a una logica di gruppo per cui si tratta sempre di dialogare, di stare dentro il gruppo, ecco, ci debba essere anche la dimensione personale e ci debba essere anche la durezza del testo di filosofia. È per questo che, ad esempio, rispetto al mondo di Sofia o anche al testo di Saudino, ecco, io qua in questo lavoro ci tengo in qualche modo alle citazioni, cioè che è stato adesso un lavoro non da poco, insomma, no? Perché essenzializzare, trovare le citazioni che abbiano un senso dentro un percorso non è stato semplice, insomma, ecco, ma ci tengo in qualche modo a non banalizzare la filosofia, ci tengo la citazione, cioè sarà, scusate, palloso se vogliamo, sarà, però ciascuno di noi, il ragazzo che è tutto, ma ciascuno di noi in qualche modo cresce se assume un atteggiamento anche di ascolto, di pazienza, anche di fatica. E questo secondo me è un po' andare oltre per alcuni versi, la filosofia forcina o la filosofia forcinese. Bene, io penso che queste cose sono molto chiare nella dimensione proprio di crescita e di fatica anche che comporta il discorso filosofico. Ancora due punti molto importanti, direi, prima di passare a qualche eventuale richiesta così di chiarimenti. Ti volevo provocare su due capitoli molto belli per me, amore e bellezza, due capitoli nei quali compaiono tra l'altro due personaggi in tutta la trama del racconto, oltre ai due che interagiscono, no, nella vicenda, nel plot, diciamo, Leonardo e il vecchio saggio, a un certo punto compaiono come statue, come invitati di pietra, diciamo, ma poi prendono la parola due personaggi. Uno è la memoria, Mnemosine, che compare in Amore e Bellezza, nel capitolo dedicato ad Amore e Bellezza, e l'altro è un fantomatico uomo politico, diciamo, un giovane che ha fatto l'esperienza politica nel capitolo sulla politica, la polis, la politica, la dimensione della partecipazione alla vita pubblica, la costruzione, diciamo, della polis, no? Che cos'è la raffigurazione che fai tu dell'amore in questo capitolo? Ma sì, questo capitolo, beh, insomma, adesso il capitolo lo faccio leggere a voi, insomma, perché è chiaro che no, semplicemente dico questo, ecco, nel capitolo è chiaro che si fa i conti con la natura del ragazzino, insomma, le sue pulsioni, i suoi innamoramenti, i suoi fallimenti, anche la sua acerbità, insomma, ecco. E il ragazzino vorrebbe parlare di quello, cioè la ragazzina vuole parlare delle sue cose, insomma, del fatto che una ragazzina sua coetanea cioè, non lo fida per niente, insomma, cioè, lui si sente imbarazzato non solo quando la vede, ma addirittura quando se ne parla, lui arrossisce, sudda, insomma, lui vorrebbe parlare di quello col saggio, col mentore, e c'è a questo punto una figura femminile che è più disponibile, no, a questo tipo di ascolto. E il saggio dice no, insomma, cioè il vecchio mentore dice sì, questi sono problemi importanti, però lo vuole ricondurre ai suoi filosofi, insomma, e in effetti poi lo riporta dentro nel diciamo così nel racconto filosofico, ecco, non so, diciamo questo peso. Amore e bellezza. Pensavo di proporti due temi anche piuttosto particolari, l'amore e la bellezza, prima l'uno e poi l'altro. Cosa ne pensi? Leonardo ebbe un piccolo sussulto. Sentire il vecchio parlare d'amore gli sembrava piuttosto strano, perché quello gli pareva un argomento da giovane, non da anziano. Anche la bellezza non gli pareva una questione filosofica. Era rimasto un po' sconcertato dal tema poco usuale, almeno così credeva, nei discorsi seri della filosofia. Fu per questo che, dimenticandosi per un attimo dei dolori fisici del corpo, assentì all'ipotesi avanzata del vecchio e si affrettò a rispondergli affermativamente, aggiungendo: sono proprio curioso di capire di che tipo di amore vuoi parlare e cos'è la bellezza per te. Ammetto comunque di essere un po' stupito, perché un discorso filosofico su queste tematiche non l'ho mai sentito prima. Mi sono fatto l'idea che i filosofi non trattino questioni così frivole. Caro giovane, rispose il saggio, non capisco da dove ti derivi una convinzione di questo tipo, che mi sembra quanto mai sbagliata. Ritengo che amore e bellezza, in fondo, ricoprano un ruolo incredibilmente importante nella vita delle persone. L'amore è una forza straordinaria che ci conduce là dove non avremmo mai pensato di arrivare, che ci fa superare ostacoli e difficoltà, facendoci andare oltre noi stessi, verso l'altro, gli altri, coinvolgendosi sul piano emotivo e conoscitivo in maniera eccezionalmente forte e potente. La bellezza è in continuità con l'amore, attrae sottilmente ed efficacemente il soggetto, lo affascina, lo pervade, pur essendo egli stesso l'autore di un determinato giudizio estetico che comunque lo innalza sul piano spirituale e culturale. Amore e bellezza sono il risultato di una determinata destinazione storica nel percorso che l'umanità ha fatto e oggi qualificano le caratteristiche di ciascun individuo, della sua personalità e delle sue peculiarità nell'aprirsi al mondo e agli altri. Io qui te li propongo come due caratteristiche umane su cui riflettere in maniera un po' approfondita, perché sono convinto che un giovane il quale abbia chiara consapevolezza di che cosa siano amore e bellezza sia in grado di affrontare la vita in maniera felice ed equilibrata, senza farsi travolgere da atteggiamenti e sentimenti negativi. Comincerei dall'amore, considerando l'importanza che un tale sentimento può avere nella vita di un adolescente. Infatti, ma su questo vorrei proprio che fossi tu a esprimerti, la scoperta di una tale attrazione affettiva, di una forte emozione che, mescolata alla dimensione sessuale, ci fa uscire da noi stessi e andare verso l'altro, comporta spesso uno straordinario sconvolgimento emotivo, una sorta di ubriacatura esistenziale, non sempre facile da gestire. Soprattutto il primo innamoramento e le prime relazioni sentimentali rischiano di travolgerci, perché sperimentiamo una forza che ci mette in gioco per la prima volta, individualmente, senza l'aiuto dei genitori, e ci apre a una relazione con una persona che poco innanzi ci era estranea e che poi diventa il centro del nostro mondo, dei nostri sogni e desideri, delle nostre fantasie sulla vita e sul futuro. Questa dell'amore è una scoperta fuori dall'ordinario che ci invade la nostra quotidianità e rivoluziona il nostro modo di essere, la maniera di percepire noi stessi. Ecco, vorrei sentire su questo il tuo parere e il mio obiettivo sarebbe quello di cercare assieme di cogliere le caratteristiche essenziali dell'amore, quelle che lo denotano come sentimento specifico che ci caratterizza quali esseri umani e che può trasformare la nostra vita, regalandoci momenti di intensa felicità o anche di sofferenza e talvolta di tragedia. Cosa ne pensi? Sì, qui chiaramente il giovane si ritrae, insomma, presenta le sue le sue obiezioni, e poi però in pratica il vecchio saggio gli propone la figura di Platone, del simposio di Platone e la funzione di Eros, e perché insomma secondo lui, ecco, il primo che parla in maniera adeguata dell'amore è appunto Platone, del simposio eccetera eccetera, per cui qui la risposta di Leonardo. Non ti capisco proprio, esclamò Leonardo. Dimmi cosa c'entrano queste affermazioni di Socrate con l'innamoramento che una persona può provare nei confronti di un'altra. È proprio tutta un'altra cosa. Il vecchio saggio accolse positivamente le obiezioni del ragazzo. Effettivamente, a prima vista, poteva sembrare che fosse proprio così, ma solo a un primo approccio. Il mito di Platone, infatti, era una straordinaria metafora di quel che può essere l'amore, sia nei confronti di una persona sia in termini più generali. Rispose quindi alla perplessità del giovane. Caro ragazzo, questo è proprio l'esempio di come talvolta vada letto un passo filosofico. Non alla lettera, parola per parola, ma individuando il senso profondo che sta al di là delle parole, il suo messaggio essenziale. Infatti, questo di Socrate è un racconto che si deve interpretare, perché, pur nella sua dimensione mitica, quel che ne scaturisce è una vivida descrizione di ciò che è l'amore, la sua contraddittorietà, i suoi caratteri ambivalenti e la dimensione dinamica, non statica e data una volta per tutto. L'amore, che parte da una situazione di privazione, di mancanza e di povertà, si dirige verso un oggetto desiderato, il quale nel nostro caso è però una persona, tienilo bene a mente, e questo tendere l'induce a uno stato emozionale particolare, soggettivo, estremamente vitale, che è appunto l'innamoramento. Il suo scopo è un atteggiamento passionale del soggetto, che guarda la felicità come stato a cui tendere. Quel che è chiaro è che l'amore è una forza fuori dall'ordinario, che ci fa uscire da noi stessi e andare sulla via verso una meta, il che caratterizza di fatto l'essenza dell'uomo, la sua disposizione alla ricerca di ciò che è bello e buono. Per questo, come abbiamo già detto, è coraggioso e si getta a precipizio, ed è veemente, è un mirabile cacciatore, intreccia sempre delle astuzie. In una stessa giornata, piuttosto, ora è in fiore e vive quando trova una strada, ora invece muore, ma ritorna di nuovo alla vita, eccetera. Pensa alla natura viva e mai scontata dell'amore. Certo, in termini più generali, Eros è anche la tensione che ci spinge a uscire dalla nostra condizione di non conoscenza per andare verso la sapienza. È solo grazie a questa dimensione di mezzo, a questa forza, che non ci adagiamo nell'ignoranza, ma arriviamo al sapere. Vedi come attraverso questo mito Platone parli di noi, del nostro modo di vivere l'amore verso l'altro, verso una persona o verso la sapienza. Bene, allora io penso che questa dimensione dell'uscire da sé, dell'uscire dal proprio io e aprirsi al mondo comune, detta così ovviamente sintetizzo un attimo, ma questa spinta erotica verso il resto delle cose, del mondo, della sapienza e anche dell'altra persona che troviamo, che possiamo ritrovare anche un po' nella dimensione della politica, che anche questa rientra un po' in questa necessità e spinta a non pensare unicamente a se stessi e al proprio particolare. Ovviamente non voglio metterti in bocca cose che tu non hai scritto e non hai detto, però leggendolo io vedo una simile spinta anche in quello che è il capitolo relativo alla istanza politica, no? Come direttrice di fondo nella crescita della persona. Penso però che adesso, dato anche il tempo, non ci sia la possibilità di approfondire ulteriormente questo aspetto, e forse possiamo lasciare un po' di tempo a qualche tua precisazione oppure a qualche domanda sull'insieme delle cose che abbiamo detto. Se siamo solamente questo, ecco, sulla questione dell'amore, ecco, si tende in particolare, emergeva un po' dalla lettura anche, ma questa questione del rispetto. Poi questa cosa torna anche nella filosofia di Erich Fromm, che viene recuperata, la questione del rispetto per l'altra persona, qui al ragazzo, no? Soprattutto verso l'altro sesso, insomma, o verso chi è oggetto di amore, ci deve essere questa dimensione del respingere, no? Quindi del guardare no? Quindi guardare l'altro così com'è, non pretendere che sia degno alle aspettative proprie. Quindi questa questione del rispetto è una questione fondamentale sulla quale insisto. Sulla questione della politica, anche qua, ecco, invito voi a leggerlo, insomma. È chiaro che qui c'è anche tutto un percorso e anche per alcuni versi anche un'autocritica su alcune caratteristiche, ecco, di quel percorso, quello dell'ex giovane in qualche modo alla fine, ad esempio, recupera fortemente anche la dimensione della la proposta della Arendt, insomma, no? Cioè della Hannah Arendt, quindi questa questione del due in uno, insomma, in qualche modo, no? Cioè noi siamo sempre questo due in uno, questa questione del continuo dialogo, per cui ad esempio anche la dimensione forte, la dimensione ipostatizzata, insomma, no? Cioè delle ideologie viene messa fra parentesi se noi siamo sempre in dialogo con noi stessi e se quindi anche la nostra posizione non viene mai assunta come definitiva, che è un po' la dimensione debole alla quale anche no, accennavo all'inizio quando parlavo per alcuni versi la questione dell'essere, insomma, ecco. Assumere la concezione debole del problema dell'essere forse induce maggior tolleranza, maggior ascolto dell'altro e quindi anche condivisione, insomma, delle condizioni dell'altro senza cadere in assolutizzazioni di stampo ideologico o essenzialistico. A questo proposito te la prendi anche col 68, però ho visto che quando il politico parla a un certo punto nel capitolo sulla politica interviene questo convitato e facendo la sua ricostruzione del proprio passato anche, diciamo, intemperante ideologico, pontifica in modo autocritico su quello che era stato il 68. Come mai anche questo il vecchio saggio fa dire all'invitato che compare a istruire il giovane Leonardo? Leggeranno loro, quindi diranno loro fino a che punto eventualmente me la prendo con 68. Certo me la prendo con alcune assolutizzazioni di quel periodo, io credo che questo sì, almeno questa è la mia posizione, però è anche da dire che e quindi qui certamente questa questione dell'altro, della tolleranza, del rispetto delle posizioni altrui, eccetera, ecco, c'è anche da dire che comunque alla fine dell'intervento dell'ex giovane, ecco, quel che trasmette all'adolescente è la capacità di indignarsi, dice l'ex sessantottino, dice, ecco, una cosa sola, insomma, forse più di una, ecco, ma una cosa che salvo di quel periodo, no, è stata che continua a portare dietro, è questa capacità di indignarsi di fronte alle ingiustizie. Questo è l'elemento che salvo di quel tipo di atteggiamento e che salvo in qualche modo della politica, al di là degli incarichi che uno possa avere o non avere, insomma. L'attenzione per la cosa pubblica, la responsabilità e anche la capacità, appunto, di non reggere, insomma, le ingiustizie e quindi di indignarsi, questo è un elemento che l'ex giovane cerca di trasmettere al giovane Leonardo. C'è qualche domanda, qualche intervento? No, tutto chiaro. No, se posso dire che cosa. Ci sarebbero tantissime cose da dire, non voglio fare domande naturalmente perché non c'è il tempo. Però quello che noto, soprattutto come insegnante, appunto, è un po' intanto il messaggio principale, no? Il mentore che se ne va alla fine, che svanisce, è un po', come dire, la metafora del compito principale, insomma, di chi lavora nella scuola, non lasciare che poi se ne vadano con le proprie gambe. E ci vedo anche un significato psicologico, no? Perché io concepisco anche la filosofia un po' come un, oltre che un fine, anche un mezzo terapeutico, un mezzo per stare bene, no? L'adolescente che vive in un periodo di identità diffusa, no? Come direbbe insomma, anche il tuo editore, e che va alla ricerca di una determinazione, è un po' il paziente che va a cercare aiuto dal suo terapeuta in fondo, no? Per capire chi è, e fa questo lavoro di analisi come bisognerebbe fare, come dici tu, scusa se ti do del tuo pubblico, ma ci conosciamo da tanto tempo. Con un lavoro attento di analisi del testo, un lavoro in profondità, non un lavoro di superficie come purtroppo la scuola oggi ci costringe a fare, no? Anche tenendo conto di come bisogna poi lavorare in vista dell'esame, no? Bisogna toccare un po' tutto, affrontare tematiche interdisciplinari dove la filosofia ci entra con qualche frasetta così banale e non certo con una conoscenza dei testi, del lessico, quindi veramente superficie e non profondità. Ecco, io ci vedo un legame molto stretto, le cose che hai detto, le cose che hai scritto, con il lavoro proprio di analisi anche psicologica, il tentativo di stare bene, no? Alla ricerca di radici nascoste. Un psicologo direbbe alla ricerca dell'eredità emotiva, no? Quello che ci portiamo dietro, no? Anche da generazioni senza saperlo, ma che ci condiziona e ci impedisce molte volte di raggiungere quello che vogliamo fare nella vita, quello che cerchiamo. È un peso che va elaborato, no? Così come la filosofia ci consente di elaborare i grandi temi. Ecco, non solo per dire che mi hai dato tante suggestioni, insomma, ma io tendo a spostarmi anche molto sul lato psicologico. Bene, allora, mi sembra che abbiamo concluso. Salutiamo i nostri ospiti. Vi ringrazio per la pazienza, perché discutere sempre di queste questioni magari implica pazienza, appunto. Grazie a Claudio per la giusta osservazione, insomma, da docente attuale, insomma, di filosofia, quindi sul campo tutte le mattine. Grazie. Grazie a tutti quanti. Grazie a tutti. Yeah.